di questo nuovo festival, il primo addirittura a Bologna, si chiama Cambiamenti, Pensa Sostenibile, Vivi Circolare, e appunto sarà il primo festival dedicato all'economia circolare a Bologna, con l'obiettivo di fornire a cittadine e cittadine soluzioni concrete per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici. E qua parte proprio la bomba. Esatto, diciamo il concetto chiave è proprio quello delle soluzioni concrete, quindi cercare di non creare il classico appuntamento, tanti se ne sono visti e se ne vedranno, con diciamo così i tanti problemi, magari in cui non si cerca di affrontare, trovare anche la soluzione in modo concreto, proprio nella vita di tutti i giorni, ma senza dover stravolgere chissà cosa del proprio stile di vita, oppure cercando di andare incontro a delle realtà che magari esistono da tanto sul territorio e che non si conoscono. Infatti una delle idee che ci ha portato poi all'organizzazione di Cambiamenti Festival è stata proprio quella di mettere insieme tante realtà che ci siamo resi conto negli anni con le attività di Backbone, dell'associazione che poi c'è dietro all'organizzazione del festival di base. Che ci presentavi a maggio 2022, esatto. Per chi non se lo ricorda poi può andare a vedere su Coxo Spaziale. coxospaziale.blogspot.com. Well done. E metteremo anche tutti i tag. Assolutamente. E ci siamo resi conto quindi negli anni, avendo la possibilità di portare avanti diversi progetti, uno Mia l'hai visto anche tu, è stato il Vets Lab nel 2021. L'ho vissuto perché insomma, esatto, bellissimo, lo cito nello specifico, e tante realtà che poi difficilmente si trovano a fare rete, però nel momento in cui si lavora più mani, con più teste sugli stessi progetti, alla fine viene fuori sempre qualcosa di bello. E quindi ci siamo detti, perché con tanto lavoro ovviamente la cosa non viene così con uno schiocco di dita, perché non mettere insieme tutte le realtà della rete che negli anni abbiamo creato e cercare di creare questo tessuto che parli prima di tutto alla cittadinanza, alla città di Bologna, ma non solo, e quindi dare forza al gruppo invece che alle singole unità che magari, esaurito il piccolo progetto, restano lì e tornano a essere delle isole. Certo, certo. E questo mi viene da dire che sia un po' anche l'idea di sostenibilità questa, no? E di circolarità, quando appunto le forze interagiscono e agiscono tra di loro e insieme, no? Che è quasi la sfida più grande anche di questo tipo di lavoro che potete portare. Non vi siete ancora ammazzati, perché vi vedo felici, sereni, rilassati. Marta, tu vieni dall'esperienza di Backbone anche tu, oppure sei entrata nel team con Festival Cambiamenti? No, in realtà io sono la co-founder, quindi da lontano 2018 faccio parte di Backbone. Però non c'eri l'altra volta, no. Mi hai fatto fare questa scivolata, vedi? Perché esatto. Non ti volevo anticipare troppo. Esatto. Grazie mille, io non ho i social, non vedo niente, le persone vengono introdotte per il passaparola, per cui ti chiedo scusa Marta. Vabbè, ma... dai, uno scivolone coccico ci sta. Grande. Ma assolutamente nessun problema, anche perché io i social ho ben poco, quindi capisco benissimo. E sì, l'idea è nata un pochino dal fatto che vogliamo dare un manuale d'uso. Si può essere sostenibili con poco ed è veramente facile, perché poi, diciamolo, a Bologna è anche un buon terreno fertile dove siamo tutti più o meno attivi. Certo, certo, certo. E quindi proprio per questa esperienza che nasce da Backbone e adesso diventa il festival, lo vedete come una soluzione di continuità esattamente dal lavoro che avete seminato e sperimentato in tutti questi anni, dico bene? Sì, anche una sorta di evoluzione di quello che è stato il lavoro negli ultimi anni. E già un po' dall'anno scorso abbiamo cominciato a confrontarci, a dire, insomma, capire che tipo di svolta dovesse anche in qualche modo, che tipo di strada dovesse intraprendere l'associazione, invece di portare avanti solo tante piccole attività, a volte anche in modo frammentario, come invece creare qualcosa che fosse più organico da questo punto di vista. Quindi non solo più laboratori sulla sensibilizzazione all'uso e riuso, riciclo della plastica, ma proprio concetti di sostenibilità ambientale, ma anche sociale, anche economica, a 360 gradi, calate nel contesto di un grande festival, perché alla fine anche dal punto di vista delle dimensioni sarà un grande festival, andremo ad occupare una superficie di 3000 metri quadri praticamente il sabato 7 ottobre e la domenica 8 di ottobre invece saremo sui soli 1600 metri quadri dello spazio bianco di Dumbo. Ho messo un tadà, dai. Era giusto, 3000 metri quadri, 7-8 ottobre, quindi da Dumbo. Adesso mi interrompo di nuovo. No, scusa, da Dumbo dove? In quale? No, perché Dumbo sono 200.000 esatto. metri quadri. Spazio bianco spazio e bianco. Temporanea il sabato, okay. E il solo spazio bianco per quanto riguarda la domenica. Okay. E avremo tantissimo, quindi... Allora, prima di entrare dentro a tutto il programma di eventi dettagliati... Entriamo in questo spazio verde, ovvero, senti qua, il nostro Marco Roma. Buongiorno. Che ci saluta. Se tu mi guardi... Mi guardi sempre così, io vedo che ce la farò e vincerò da Marco Roma. Buongiorno a te. Grazie Marco Roma, siamo contenti che almeno tu vinca qualcosa. Esatto, noi amiamo Marco Roma e lo sentiamo, io non lo sentivo da ormai più di un mese. Esatto, sì. Non so come ha fatto a vivere senza di lui. E questo messaggio è di oggi naturalmente, lo ringraziamo perché... lunedì, martedì, giovedì, venerdì e oggi ha mandato il suo vocale, per cui giustamente ne abbiamo in abbondanza. Giustamente. Dobbiamo cominciare a fare doppiette per i prossimi episodi. Ma dobbiamo cominciare a dire a Willy di metterli alla mattina, dai. Esatto. Ci potrebbe stare. Marco Roma è il nostro mascotte, ci manda sempre questi audio bellissimi, innamoratissimi, positivi. Lui comunque se non hai più certezze ti ascolti un audio di Marco Roma e sei a posto per almeno tutta la giornata. Non dico tutta la settimana, però dai, da stasera fino a quando andiamo a dormire siamo sereni, no? Assolutamente. Questo Eccoci ovviamente qua. Stefano non è un no, jingle. No, questa è no, in realtà è Stefano Willy cade. È Jenny Owens che è fatta da esatto. Comunque, bene. Mm-hmm. La domanda prima di una canzone o dopo una canzone, ma la lascio così, la butto così. Buttala così. La sfida più grande che avete trovato nel lavorare insieme, non tra di voi, ma nel mettere insieme tutte queste realtà. Ecco ansia, mi viene da dire, no? Prendo... Parla d'ora. L'estate che si vendica, due colpi di tamburo, due euro di prevendita, uscire dalla porta, voi dopo cosa fate? Paura di camminare, come i cani sulle grate, andare i concetti, capire i concerti, laurearsi in problemi e regalare i confetti. Questo lavoro del cantante, come nel circo i trapezisti. Anagramma, tra sti pezzi, c'è la mia vita, scritta nei dischi. Sabato non si incomincia. Si tagliava i capelli così corti che quasi le vedevi i pensieri e ti assicuro che erano contorti, però ce n'era uno che diceva tu dov'eri, oh, io ti aspettavo da un'eternità mentre guardavo la città da sotto il cappuccio. Ci vediamo, che ne so, magari in darsena a bere l'ultima da Peppucci. Una cosa che mi piace e l'altra no, i rigatoni, i reggaeton, il fantasma di Battisti è mogol, il plurale di polmoni è bolmol. Mi piace solo che è trasparente nel parlarti di problemi e desideri. Tipo lei che si tagliava i capelli così corti che quasi le vedevi i pensieri. Sabato domanda. Ecco ansia. Hai guardato il video? Ho guardato il video, ho letto il sito. La parola a voi. Allora, Marta, vuoi prendere tu la parola che sei stata molto più sulla parte di programmazione attività? Dai, diciamo che Eco Ansia è il nostro fil rouge che ci guida. Siamo tutti ansiosi, no? Scherzo. Nel senso che il festival nasce un po' come risposta a questo sentimento comune che abbiamo, che è quello di sentirci quasi impotenti di fronte a tutto quello che ci accade. Quindi vediamo alluvioni, terremoti, ma banalmente sembra che noi non possiamo far nulla. Però noi di Backboard ci siamo guardati intorno e abbiamo detto, cavolo, c'è tanta gente che come noi lavora e come noi porta avanti progetti se non meglio di noi. E quindi abbiamo detto, dai, siamo in tanti, facciamoci vedere, facciamo un festival per tutti noi che questa ecoansia vogliamo combatterla. Mi sembra una cosa quasi utopica. No, dai, utopica no, la stiamo facendo, quindi dai, venite a vederla, vedete se vi piace e venite a farla con noi anche. E devo dire che dall'esperienza anche come noi di utenti magari di altri festival in giro per l'Italia, non solo, abbiamo cercato di anche non andare per forza di cose nel solco di cose fatte da altri, anzi cercare di rendere il tutto più coinvolgente, non farti sentire, come dire, avulso, arrivi lì e, sei, e subisci passivamente quello che succede, ma diventare proprio soggetto del festival, attore. Allora parliamo di parole chiave: 90 realtà coinvolte. Sì, le realtà sono circa 90 in diverse modalità, quindi abbiamo tavole rotonde sui temi più disparati, quindi dal lifestyle al turismo, al territorio, alla finanza. Poi abbiamo workshop, quindi c'è la Fondazione Golinelli che fa dei workshop per coinvolgere appunto i bambini, i bambini non solo, perché fino ai 13 anni, sui temi dell'economia circolare. E anche altri workshop che riguardano appunto la moda, il recupero di camere d'aria, la cosmesi, un po' come il nostro percorso di Bets Lab racchiuso in 2 giorni. Ci sarà anche il Circolo Vecchietti? Dai, speriamo che vengano, li abbiamo invitati tutti perché appunto è un'occasione per tutte le età. Poi anche abbiamo un'area food dove il cibo sarà principalmente vegetariano. E quindi diciamo che abbiamo creato un posto accogliente, un punto di ritrovo per tutti coloro che vogliono sentirsi abbracciati da queste realtà che lavorano sul territorio nei termini della sostenibilità. 333 180 94 94, se avete domande da fare ai nostri ospiti. Bisogna iscriversi ai laboratori? Domanda appena arrivata al 333 180 94 94. Diciamo di sì. C'è da iscriversi ai laboratori, sicuramente a quelli organizzati dalla Fondazione Golinelli, e anche per insomma arrivare a un numero congruo di persone, non superare insomma un limite di persone tali per cui poi il workshop possa essere insomma fruito al meglio. E per quanto riguarda sempre le esperienze, diciamo così, all'interno della campagna di crowdfunding, ma non solo, quindi possono essere coinvolte anche persone che non passano dalla campagna di crowdfunding, sono previste delle ricompense. Ricordiamo che la campagna andrà avanti fino al 23 di settembre, quindi è ancora attiva, E tra le ricompense, ad esempio, ci sono degustazioni fermentati, oppure una lezione di tango molto particolare. Oppure... Su che piattaforma è la... La piattaforma è Idea Ginger. Ok. Su cui, insomma, di solito vengono veicolate queste tipologie di campagne. E il ruolo di tamburi, l'attività più bella per cui c'è la ricompensa, è costruire una lampada con materiale riciclato con noi di Bekbo. È bellissimo. È fantastico. E qual è la ricompensa? Appunto di portare a casa questa lampada che puoi costruire con noi. Vabbè, ed è bellissimo. Bellissimo. Ve l'assicuro. Esatto, basta che fate un giro sui canali social di Bekbo e vedrete queste lampade create con fogli di plastica riciclata, per farvi un'idea. Bello, bello. Farete anche dei workshop su come lavorare insieme? Allora, un po' in realtà sì, perché ad esempio con AlmaCube c'è un workshop più interattivo sul ripensare assieme la propria spesa. Quindi come io nella mia quotidianità riesco a ripensare la mia spesa per fare scelte semplici, usando magari anche i comuni supermercati, ma più sostenibili. Certo, certo, certo. Beh, fondamentalmente un po' l'obiettivo di questo festival è veramente dare anche un po' una nuova base di partenza a tutte le attività che avete fatto negli ultimi quasi 6 anni, diciamo, no? Esatto. Cinque e mezzo. Sì, cercando di ampliare tantissimo il raggio, non fermarci alle realtà con cui abbiamo collaborato negli anni, ma entrare in contatto anche con realtà nuove, diverse, che magari provengono anche da contesti diversi, quindi non per forza legate al territorio bolognese, certo. Anche se ci rivolgiamo a una cittadinanza che è prettamente quella, certo, bolognese o emiliana, insomma, chiunque vorrà venire sarà sicuramente contento di conoscere delle realtà che sono virtuose da questo punto di vista. Certo, certo, anche per le stesse realtà capire che appunto non sono sole, fondamentalmente sarà importante, a volte magari appunto c'è qualcuno che fa un'iniziativa e poi non riesce più a dare seguito proprio perché gli manca una sorta di, così, non dico collaborazione, però diciamo sentirsi parte di qualcosa un po' più grande, no? Un po' più grande del proprio piccolo perimetro, dico bene? Sì, esatto. Assolutamente, sì sì, la sinergia, diciamo, e unire le forze è un po' quello che ha sempre guidato la filosofia di Bekbo, quindi assolutamente. Tu che dici, Stefano? Vai il 7 o l'8? Entrambi i giorni, naturalmente. Che domanda. Grandissimo. Che giorni della settimana sono, fra l'altro? Sabato e domenica? Sabato e una domenica. Sì, sì. Tra l'altro le giornate sono talmente diverse tra loro che in effetti anche con una full immersion di 2 giorni sicuramente si trova sempre qualcosa da fare. Fantastico. Ci sarà anche qualche musica, qualche momento conviviale, ci sarà appunto qualcosa da mangiare, da bere, sì. E ci sarà anche qualche tutto piccolo... vegetariano, l'ha appena detto. Sì, ma sì. Musica vegetariana. è vero. Ci sei andato vicino. Sì, ah, sì, vedi? C'è musica vegetariana. Vedi? Apposta. No, è vero. Sembra fatta apposta per me questo festival. Ci sarà un artista che suona appunto degli strumenti musicali non convenzionali, che vengono anche fatti da ortaggi, quindi è vero. Ah, musica vegetariana. E se non ci piace possiamo portare gli ortaggi da casa anche noi. Esatto, e improvvisare, fare una jam session così. E sfogarci. Bello, fantastico. Bellissimo. Come si chiama l'artista? Porca Pizza. Porca Pizza. Ecco. Porca Pizza. Devo mettere un suo pezzo poi. Infatti. Ah, cavoli, è vero, che poi fra l'altro mi avevi dato un pezzo di YouTube da suonare che... Prima o poi ce la facciamo. Se vogliamo lo suoniamo. Se non vogliamo importa. Non lo suoniamo. Non importa. Ma ci possiamo provare comunque. Direttamente da YouTube. Direttamente da YouTube, chiaro. Ma non adesso, perché in realtà potremmo anche suonarlo adesso. Ha senso suonarlo adesso? Perché fra 4 minuti partono le pubblicità. Dimmi tu. Suoniamolo adesso e ricordiamo che appunto oggi, l'11 settembre, è il... ricorre tra le varie cose ricorre il cinquantenario dal golpe militare con cui il Cile, lo stesso giorno del 1973, il generale Pinochet rovesciò il governo legittimo e instaurò una dittatura nella quale la forza della cultura sostituì quella delle armi. Quindi questa canzone la dedichiamo ai nostri amici cileni, che però forse non parte perché non so dove non so da dove arriva. Proviamo qua. La provo a far partire io? No, non puoi farla partire tu. Tablet CD1, no. Autoradio, no. Ah, AUX 3, forse qua. Eccola. Tutta la tirrentera. y toda la tierra entera será un poco de mi tierra. Donde quiera que me encuentre, donde quiera que me encuentre, seré siempre pasajera. Mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas se convirtieron cenizas, se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Puedo hablar, puedo reír y hasta me pongo a cantar, pero mis ojos no pueden, pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta spaziale. Ed eccoci tornati. Volevo soltanto dire che avevamo ascoltato Nito dalla Tierra intera, Isabel Parra, ed era dedicata a Juan Contreras e Erminia Romero, che in questo momento sono al centro sociale Giorgio Costa insieme a tutti gli amici della Fondazione Amanecer, di Serendip e di Oltre il Blu. Quindi so che Etta, Francesco Di Tillo, Tatiana Basso, ci state ascoltando. Se volete mandare un audio in diretta al 333 180 94 94, perché le chiamate in diretta non so farle e Stefano mi picchia se le faccio. Esatto. Quindi, però quindi... in realtà ce l'abbiamo un audio, giusto? Mandalo. Aspetta, non così veloce, però pensavo che ce l'avessi pronto. E quindi c'è questa incredibile due giornate di Oltre il Blu, visioni e riverberi di un passato attuale, dove dà un'idea di Francesco Di Tillo e Massimo Pincheira, Corbalan Pincheira. Nasce poi un progetto più ampio che coinvolge lo spazio pubblico di Bologna, cura di Serendip, Tatiana Basso, con la partecipazione di Amanecer e Fratello Resiste. Ho una domanda, però: quale dei file, dei cinque file vuoi fai, che io... Fai il roulette russe, roulette audio. Ah sì, a caso? Lorenzo Cipriani, ti va bene? Della conferenza stampa che si è tenuta il 9 di settembre. Ok. Forse parte, forse. Si parla ancora una volta di resistenza, memoria e luoghi pubblici dove questa memoria si dipana. Sì, assolutamente. Io sono molto contento, hai detto bene, arte, cultura, memoria e comunità. Io penso che in questa iniziativa, per cui ringrazio tutti gli organizzatori, sia importante aprire le nostre case di quartiere. Il fatto che la casa di quartiere La Pace in via del Pratello e la casa di quartiere Giorgio Costa in piazza Gardino saranno due luoghi in cui questa iniziativa si svolgerà riempie in pieno quella che è l'intenzione del Comune di Bologna per questi luoghi, luoghi in cui la comunità si possa incontrare anche per ricordare quelli che sono degli eventi che hanno colpito l'Italia e il mondo. In questo caso parliamo dei 50 anni di quello che fu il golpe di Pinochet e di quello che fu un qualche cosa che colpì profondamente tutto il mondo civile, e fondamentalmente mi fa piacere che da Via del Paratello, che è una strada per la della resistenza, in cui noi ricordiamo ogni anno la nostra Repubblica nata dalla liberazione, si possa comunque come un filo rosso passare a questo evento della memoria, che comunque riguarda centinaia di migliaia di altre persone, anche l'Italia e devo dire anche Bologna, che ha accolto decine e decine di esuli cileni. Coxo spaziale! Yeah. Questo era un piccolo estratto. Salutiamo anche Alena Tonelli, che non mi ero dimenticata nei saluti di prima, e comunque li rivedremo tutti quanti in diretta il 18 settembre, che ci racconteranno tutto quello che hanno e abbiamo fatto. Ora ritorniamo ai nostri ospiti con delle domande che avevi tu, Stefano. Avevo io? Allora, Stefano voleva chiedervi giustamente. Esatto. Falla tu la mia domanda. No, come vi sentite? Vi sentite abbastanza soddisfatti di ricordiamo di nuovo Fabio Solo e Marta Carboni, che sono a Coxo Spaziale, parlano il primo festival, appunto, lo nominavate primo festival dell'economia circolare. Posso chiedervi come mai secondo voi è il primo e che cosa ha? Domanda un po' così spigolosa, cos'ha di diverso, ma anche così avvincente per chi anche da altre città o altri stati il 7 e l'8 ottobre verrà a fare laboratori e ascoltare iniziative di economia circolare. Cos'ha di nuovo e di diverso questo festival? Allora, in realtà diciamo che non vogliamo essere presuntuosi, nel senso che a Firenze c'è un festival spaziale dell'economia solidale, e che vi raccomando, tra parentesi. Tu sei fiorentina? No, okay. Però sono marchigiana con un accento sbagliatissimo. Perdonatemi, no, marchigiani. No, non c'è niente di sbagliato. Il Manhattan sbagliato. Esatto. Che comunque è più buono di quello giusto. Esatto, esatto. Sono un negrone sbagliato delle Marche. No, di festival ce ne sono tanti, e tanti bellissimi in Italia. Siamo il primo di economia circolare a Bologna perché è vero, anche perché ci siamo presi il nome, innanzitutto. Economia circolare che non è solo il voler continuare la circolarità, che è un po' il processo naturale delle cose, e mostrarlo anche come si può avere nella quotidianità fatta di consumo. Non è solo questo, ma è una circolarità fatta, come abbiamo ribadito mille volte, di relazioni. Quindi ci sentiamo in diritto di prenderci questo titolo anche per il lavoro che abbiamo fatto, di cui siamo, appunto, tornando alla domanda di prima, molto soddisfatti, anche perché quello che ci rincuora è stata appunto l'adesione della rete che abbiamo creato, che è fantastica. Esatto, e parlando di adesioni, tra le diverse realtà che hanno deciso poi di rispondere subito alla chiamata, c'è stata anche, insomma, anche Radio Città Fujiko, che è radio ufficiale del festival. Avrete anche un jingle di promozione? Ce l'avete già pronto? In realtà lo potete improvvisare qua. Potrei improvvisarlo. Dai, io improvvisato. Ma non è un jingle, è una frase. Vai, Fabio. Ecco ansia, è ora di cambiamenti. Hai capito? Ci possiamo mettere un tadadam. Ci possiamo mettere un ta-da! Perfetto, molto bene. Io invece ci volevo anche mettere un questo, l'angolo della menzione, perché appunto, a parte che ci è arrivato un vocale che adesso vi farò sentire fra non molto, ma come abbiamo appena detto, oggi dalle 19 al centro sociale G. Costa, che non so chi sia, Guido Costa, non lo so, no, non lo so, in via Azzo Gardino 44, l'associazione Amanecer, fondata da Amanecer, grazie, tu sei abbastanza, no, è che è un po' lontano, da Juan Contreras ed Erminia Romero, aprirà la commemorazione del cinquantenario del golpe militare. Cavoli, sono già passati 50 anni, con un denso programma di eventi. Il 16 settembre, che è tra poco, alle 17:30, presso il Centro Sociale della Pace e lungo Via del Pratello, prenderà corpo Oltre il Blu, a cura di Serendipo e Tatiana Basso, in collaborazione con Fratello Resiste. I lavori degli artisti Massimo Corvalan, P. Pincera, Francesca Di Tillo, Mia Daschio Supiè, che mi sembra di conoscere, e Alena Tonelli interagiranno con persone e luoghi per sollecitare una riflessione plurale sulla memoria, su come essa possa essere recuperata, elaborata e comunicata. Naturalmente trovate tutto su serendipo.com, ma non solo, trovate tutto anche nelle parole, adesso se riesco a farla sentire, nelle parole della nostra Etta, che riconosco da... Ciao Mia, c'è stato un imprevisto con il messaggio da parte di Juan che purtroppo si è cancellato, e quindi ho il compito di ripetere e riportarvi le sue parole. Parlo da parte di Juan, di Mina, di Etta, con cui io, Tatiana, curo Oltre il Blu, la giornata del 16, è una giornata comunque pensata fin dall'inizio in dialogo con l'associazione Amanecer, fondata appunto da Juan ed Erminia, che ci tenevano a ringraziare moltissimo Mia per il coinvolgimento in questo progetto da lei pensato, Conversazioni Resistenti, che indagherà e farà parlare con la loro storia e racconterà la loro memoria, e un grazie anche da parte degli artisti e sempre da parte di Juan un'espressione di gioia per queste occasioni che si sono create per riportare un cono d'attenzione su questo evento della storia recente del Cile che non è passato e che è caro a tante persone, a tutti i presenti qui al centro sociale Giorgio Costa, e che continuerà in questa settimana con il 16, dove vi aspettiamo in tanti. E se andate su www.serendipobo.com trovate tutto quanto, tutto il programma, absolutely, perché poi invece dov'è? Ryanair. Esatto, Ryanair. Domenica 17 settembre alle ore 17 abbiamo il finissage dei Codici della Trasparenza di Fabio Ricciardiello, a cura di Azzurra Immediato, che è stata, cioè, è stata nostra ospita, ma appunto, ahimè, noi eravamo in vacanza, per cui non abbiamo potuto annunciare la mostra. La mostra è su tutta la settimana, ma domenica c'è il finissage. Questo è ad Adiacenze, in Vicolo Santo Spirito, che conosciamo bene. Dopodiché, come vi dicevo, da lunedì prossimo comincia il Per Aspera Festival. Forse ve lo dicevo, forse no, forse l'ho detto offline, non mi ricordo. E lunedì prossimo, dalle ore 19, la prima occasione è a Pietro, a Palazzo Tanari, in via Galliera 20 a Bologna, il vernissage della mostra fotografica Tears from the Void di Enrico Fedrigoli con Black Seven Even e Eleonora Fabritti. Dopodiché alle 20:30 alla Casa della Cultura Italo Calvino di via Roma, Calderara di Reno, abbiamo fotografia più danza più talk più ascolti, Tears from the Void, sempre Enrico Fedrigoli, Black Seven Even, con Vincenzo Scorza, Eleonora Fabritti e Simone Azzoni e anche Simone Geduzzi. Naturalmente il Per Aspera Festival, che abbiamo seguito a Coxo Spaziale tutti gli anni dalla sua prima edizione, e naturalmente andremo a parlare con la meravigliosa Maria Donnoli e poi lunedì prossimo ne parleremo ulteriormente, ma per chi di voi vuole andare a sbirciare il festival, andate su www.perasperafestival.org e trovate naturalmente tutto il programma di quest'anno. Dopodiché, naturalmente, il 7 ottobre abbiamo il Black Bow e anche in realtà abbiamo inaugura anche il 20 settembre inaugura una mostra a Galleria Piuma, ne parleremo lunedì prossimo. Absolutely, per cui finita così. Possiamo tornare ai nostri ospiti. Mi piace molto l'accento rispolverato, davvero newyorkese. Ogni tanto scappa. Absolutely. Era un po' che... Dovremmo fare la possiamo salutare ancora i nostri Radio Peng? Sono ancora in Virginia? Ma chi lo sa, non so, non li sento da un po', però presumo di sì. Dovete sapere che noi trasmettiamo anche in Virginia. in mondo visione. Siamo fratelli e sorelle di una radio, una web radio che trasmette in Virginia, si chiama Radio Peng. Che salutiamo, ovviamente. Il tempo stringe, che dire, lasciamo la parola a Fabio e Marta e diteci voi che cosa ancora non dobbiamo assolutamente perderci. Cosa non dovete assolutamente perdervi è venire al festival, perché altrimenti non lo saprete mai, ecco. A meno che non ci seguiate sui social, e qualcosina già stiamo cominciando a anticipare, soprattutto per quanto riguarda la programmazione dei talk e dei workshop, in modo da presentare anche nel modo giusto le realtà che, come diceva prima Marta, hanno risposto con tanto entusiasmo e tanta prontezza. E dopodiché vi inviteremo a iscrivervi ai workshop, perché ce ne saranno per tutte le età, quindi da chi magari ha dei bimbi di 3, 6, non so, 10 anni, chi magari ha dei figli adolescenti, o chi magari vorrà partecipare ai workshop 099, diciamo così, un po' anche per tutti. Anche chi è gatti va bene lo stesso, Esatto. Cani, gatti ammessi. Cavalli, non ci sono, esatto, quindi cavalli, uccelli, pesci anche. Benvenuti tutti, tutte, di qualsiasi specie facciate parte. E quindi seguite sicuramente i canali social di Backbow e di Cambiamenti Festival e il nostro sito web, per chi dovesse essere poco social come mia, cambiamenti.backbow.it, per non perdere quello che, insomma, il legame poi con non diamo i vostri numeri di telefono in diretta, perché sennò poi li spammano. Non mi sembra il caso. Già dare le mail potrebbe essere pericoloso, quindi. Infatti. Domanda scomoda: biglietto d'ingresso? Costo dei workshop? Assolutamente no. Gratis. L'idea, esatto, con le risorse che siamo riusciti a mettere insieme, anche grazie al crowdfunding, l'idea proprio di, come diciamo anche nel video di presentazione che trovate su Idea Ginger, trovate anche ancora la campagna attiva per ancora un paio di settimane. Quindi se vogliamo donare, possiamo ancora donare. Esatto, fino al 23 di settembre, e l'idea è proprio quella di tenere tutto gratuito, esatto. Sì. Come piace tanto agli ascoltatori di Radio Città Fujiko, naturalmente. La senti e già lo sai che brucia dentro come una fiamma ormai. Ti lascia il segno quando mi guardi tu, so quello che vorrei. Come una musica mi scorri dentro, un fiume in piena ormai, fino allo schianto. Pericolosa sei, ma è quello che vorrei. Sembrava tanto, eppure non ho niente. Se non ti ho accanto, tutta apparente. Uno andasse senza il mare, un cielo senza stelle. Solo il mio pianto mi resta senza te. Quando ti sei innamorata, perduta, da allora niente è cambiato. Ancora non lo sa, ma nel mio mondo esiste solo lei che mi sta accanto e mi perdonerà se non mi sveglierò. Da questo sogno che non è stato inganno, senza più orgoglio, senza più affanno, domanda tecnica. Vai. Che cos'è un incontro mistico digitale? Questo è bellissimo. Su questa quanto possiamo spoilerare? Molto poco, no, direi. Perché il programma è già online, per cui... Intanto, spoilerate un tantino. Babatoush. Esatto. Chi è Babatoush intanto? Cioè, chi è, che cos'è? È una guru digitale, ma che in realtà vive un po' sul piano digitale, ma molto anche sul piano fisico. Ah sì, esiste fisicamente Babatoush. Sarà a voi scoprirlo. No, infatti, esatto. Anche Manichini allo sbaraglio, devo dire che... Mi incuriosisce abbastanza. Esatto. Devo dire che dalle 16 alle 23 il programma ci saranno delle figure molto particolari e anche cominceranno a girovagare per il festival, quindi sì, di moda sostenibile, una collezione creata appunto con tutte staffe di recupero. E Babatoush è un po' un elemento, è l'elemento spirituale del festival, quindi venite a vedere, tipo una sorta di Baba Yaga. Esatto. E poi c'è la lezione di tango d'aere e serata milonga, esatto, con camere d'aria. Esatto. Non hai detto niente. No, infatti devo dire che il finale sembra intrigante. Sì. Cioè il finale poi di che giorno è? Di che giorno stiamo guardando? Del 7. Il finale del 7 nello spazio bianco, perché poi abbiamo tutta l'area temporanea sempre del 7, cioè c'è un sacco di roba. Ecco. In effetti, ero già convinto che fosse finito tutto lì, invece c'è... Sei pagine di programma, spaventoso, porca pizza show, hai capito. Ah no, però porca pizza show è il finale di domenica. Esatto, l'abbiamo anticipato esatto. Prima. Ok. Sì dai, si mangia, si balla, si sta insieme, con gioia. Con gioia. Sì, esatto. E addirittura una scoperta della serigrafia, sì, con Hugo Terfs. E questo è per tutti, vengo a fare serigrafia. Sì, sì, è per tutti. Ed è che bello, gratuito. Fantastico. Complimenti. Beh, ragazzi. Abbiamo già Stefano super sponsor. Esatto. Certo, assolutamente. No, finalmente imparo a fare serigrafia, che da prof di tecniche grafiche speciali non dovrei dire di non sapere fare, però ormai l'ho detto, per cui... Che giorni, corso di aggiornamento. Sì, infatti, un corso d'aggiornamento, ci sta. Bene, grazie, cioè, che altro dire? Abbiamo il tempo per un'ultima domanda, se ce l'hai Mia, altrimenti direi di salutare tutti gli amici di Marta e Fabio. Esatto, tutti i ragazzi e le ragazze che con noi stanno lavorando all'organizzazione del festival, chi magari dall'inizio, dal principio, chi si è deciso di unirsi a noi strada facendo, e quindi senza fare citazioni musicali così okay. A caso e sì. Anche perché guardavo, si è incrociato il mio sguardo con quello di Stefano e dicevo strada esatto, facendo ti espello dalla radio immediatamente. Bellissimo. Dai, venite il 7-8 ottobre. Il 7-8 ottobre, dunque posso mettere il jingle di Jenny Owen Youngs che dice che è finita la puntata. Senti qua. It's the end of the Jenny stream. And you know, che voce. I hate to say goodbye. Sta per uscire un disco nuovo, per cui dopo vi romperò i coglioni con Jenny Owen Youngs all'infinito. Non vedo l'ora. If you'll excuse me, I have something in my eye. E dunque ringraziamo Fabio Sola e Marta Carboni e poi vi diamo appuntamento naturalmente. Io ero Mia da Schio su Piei e io Stefano W. Pasquini e noi ci risentiamo lunedì prossimo, ma naturalmente vi diamo appuntamento il 7 e l'8 ottobre a Dumbo e naturalmente vi salutiamo con le solite parole del nostro fantastico direttore che ci commiata così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Grazie, questa era Coxo Spaziale, a lunedì prossimo. Ciao. Ciao. Never have I ever seen something so absurd. Are you a paradise bird? Cause violet shines bright in both your eyes. That can't be natural. are such a mystery to me. You even sparkle in the dark. Oh, I can't unsee it. Is this some kind of butterfly rebirth? Are you from this earth?